la vita nell'esercito è dura. Non ve lo dico io che nell'esercito non ci sono mai stato e comunque per motivi politici e ideologici di varia natura potrei essere considerato poco credibile. Ve lo dice l'esercito stesso con la sua ultima campagna promozionale, perché come abbiamo già avuto occasione di notare in questa sede, l'esercito italiano può avere qualche problema sul piano strettamente bellico, non fosse altro per mancanza di nemici degni di questo nome, ma quanto a farsi pubblicità non è secondo a nessuno. E non mi riferisco soltanto a chi è destinato a servire da padre ai livelli più bassi della gerarchia militare, in cui la vita deve essere davvero dura. Anche chi aspira a salire nei gradini fino a giungere al vertice non deve aspettarsi niente di particolarmente divertente. Capirete. L'esercito è una forza su cui contare, come suona lo slogan generale dell'ultima campagna, e i suoi valori non temono svalutazione, come ribadisce con tipica ridondanza militaresca uno slogan aggiuntivo, a dubbio conforto di quanti hanno tutti i motivi del mondo per temere la svalutazione, se non proprio dei propri valori, almeno delle proprie valute, e di fronte a questa deplorevole evenienza non hanno altra forza su cui contare che la propria. Ma l'esercito è soprattutto sincero e nella sua campagna promozionale ci assicura che l'Accademia Militare di Modena, che credo sia quella che prepara gli ufficiali di carriera, occhio croce, è una scuola dura, proprio così, una scuola dura che comporta una vita dura e un impegno gravoso. Può frequentarne i corsi soltanto chi, oltre a un adeguato senso di responsabilità di abnegazione, ha una concezione molto alta della propria professionalità. Quale che sia in concreto questa professionalità non è chiarissimo, ma è certo che quei corsi sono molto selettivi, tra virgolette, corsi molto selettivi, nel senso che vi possono accedere soltanto, virgolette, i più preparati e i motivati dei migliori giovani del paese, chiuse le virgolette, allo scopo di accedere un giorno o l'altro ai livelli più alti del comando, tra virgolette. Mica scherzo, eh? Questo esempio di advertising mi è capitato sott'occhio ieri in un ufficio postale dove facevo la fila per pagare in ritardo una esosa bolletta telefonica e mi ha stranamente confortato. Stranamente, perché io vi garantisco non ho mai creduto alla bontà intrinseca di un sistema di educazione altamente selettivo e non ho alcun motivo di pensare che una vita dura sia un valore in sé e per di più esente da svalutazione. Ma detesto la confusione delle parti. Non ho mai potuto sopportare i rivoluzionari che vantano la propria moderazione, i conservatori che affermano la necessità di cambiare tutto. Questo nostro strano paese in cui Romiti cita Berlinguer, e Occhetto, per dire che aveva ragione Berlinguer, cita Romiti, e di fronte a quell'argomentare, non a quello di Romiti di Berlinguer, di fronte all'argomentare dell'esercito ho provato un senso di pace interiore, come quello di chi vede dopo una fase di confusione che le cose si rimettono poco per volta al loro posto. L'idea che per salire al vertice sia necessario farsi un mazzo così, il manifesto non usava proprio queste parole, ma il senso era assolutamente chiaro, non brilla certo per originalità, ma è così radicata nella tradizione e nella mitologia degli eserciti da fare quasi tenerezza. E io l'ho sentita esprimere da tutti i sergenti Calogna che affollavano i film militari della mia gioventù, da Ernest Borgnine in poi, vi ricordate? Da qui all'eternità. Vi ricordate Ernest Borgnine da qui all'eternità, che bravo che era. E vederlo esprimere nero su bianco da un esercito vero, un esercito che nelle sue campagne promozionali passate, ricorderete, aveva come paura di fare la faccia feroce, si sforzava di presentarsi come un'organizzazione benefica sul modello della società di San Vincenzo, dedito principalmente al soccorso delle popolazioni colpite dalla calamità e dall'assistenza agli indigenti e al conforto dei vecchietti, beh, rappresentava un vero sollievo, a ciascuno il suo, come diceva quel tale. Ma, a pensarci bene, non che per affermare questo principio, quello che bisogna farsi un mazzo così, sia necessario rivolgersi agli eserciti reali o fittizi. In forma appena variata capita di sentirlo anche fuori dall'ambito militare. Per esempio, era la massima favorita dei presidi e dei colleghi che hanno affrontato i primi anni della mia carriera di insegnamento, e non soltanto di loro. Chi per funzione o per vocazione sente la necessità di rendere la vita dura a coloro a cui deve in qualche modo sovrintendere, avrà sempre la tendenza di spiegare che lo fa per il loro bene, per far sì che giungano ai vertici della professione o che ottengano comunque dei risultati importanti. E sfido io, che il successo sia sempre comunque il premio dell'impegno. E il fallimento, al contrario, punisca spietatamente la neghittosità, è un principio che i fatti si ostinano regolarmente a smentire, nel senso che vediamo ogni giorno persone dal solito impegno ridotte in miseria e neghittosi al potere, ma è un principio che molti sono comunque ansiosi di affermare, perché è molto tranquillizzante. Come tranquillizzante è la proposizione inversa, per cui chi ai vertici non ci arriva per niente, dei risultati importanti ne assomma pochini, non può che dolersi con se stesso per non essersi dato abbastanza da fare. È un po' una formula magica con cui si democratizza a parole qualsiasi gerarchia. Il chi ha le gerarchie, che con la democrazia non si sentono mai troppo a proprio agio, fa sempre un dannatamente comodo. Lode dunque all'esercito italiano, che ritorna dopo una lunga fase di sbandamento pietistico-democraticista alle sane tradizioni della vita militare. E non badate al fatto che il manifesto di cui vi ho parlato sia illustrato con un'immagine molto fuori moda, l'immagine di un ufficiale rubizzo con i baffi e l'aria cordiale che coccola affettuosamente da buon papà un negretto dall'aspetto emaciato. Quel militare a occhio e croce deve aver abbondantemente superato la quarantina, è capace di aver fatto il 68, comunque è cresciuto in un'era di falso permissivismo in cui una selezione molto meno rigida di adesso permetteva di far carriera anche a chi coccolava i negretti. Le nuove leve civili e militari, credetemi, i negretti vi sanno trattare in modo molto diverso, occasionalmente possono anche sparargli. Per il loro bene, naturalmente. Sì.